Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, oggi partiamo da Atene, via libera della Troica, 2,8 miliardi di euro vanno nelle casse greche. La Troica ha dato parere favorevole all'esborso della tranche di 2,8 e 6 miliardi di euro alla Grecia. In cambio Atene ha rinnovato l'IMU, la tassa sugli immobili, anche per quest'anno e si è impegnata a ridurre gradualmente il numero dei dipendenti pubblici mettendoli per un periodo da definire in cassa integrazione. La Troica ha previsto un outlook economico con prospettive di un graduale ritorno alla crescita nel 2014 grazie anche a un'inflazione ben al di sotto della media europea e a una maggiore flessibilità dei salari. Nello stesso tempo arrivano segnali incoraggianti dalle prenotazioni turistiche da Gran Bretagna e Spagna, i due principali clienti di Atene, i cui operatori hanno nel cassetto prenotazioni in aumento a due cifre. Anche le compagnie di volo hanno già messo in cantiere di aumentare di 1 milione i posti disponibili per le destinazioni greche. Secondo Andreas Andreadis, il capo dell'ente turistico greco, le prenotazioni sono in aumento quest'anno e si prevede di superare i 16 milioni di visitatori dell'anno scorso, che portarono un incasso di 11 miliardi di euro, passando nel 2013 a 17 milioni di turisti con un ricavo di 11 miliardi di euro. Una boccata di ossigeno per le esangui casse dello Stato greco. Vittorio D'Arolda, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ridurre i consumi e tagliare le emissioni. Oggi la Commissione ha varato la proposta per le nuove norme sulla costruzione dei camion del futuro. Il commissario Callas ha detto che queste misure faranno risparmiare fino a 5.000 euro l'anno di benzina a ciascun proprietario. Camion aerodinamici che permettano di ridurre i consumi, tagliare le emissioni di gas e aumentare la sicurezza. La proposta in discussione oggi in Commissione europea prevede l'aggiornamento delle vecchie norme che risalgono al 1996 con nuove norme per consentire ai costruttori di sviluppare cabine di automezzi con una forma arrotondata e l'uso di alettoni aerodinamici sulla parete posteriore del rimorchio. Un mattone è la forma meno aerodinamica che si possa immaginare, detto Sim Callas, vicepresidente e commissario per i trasporti, secondo il quale queste misure faranno risparmiare circa 5.000 euro l'anno in spese di carburante per un tipico automezzo. Tale risparmio si potrebbe tradurre in una riduzione del 7-10% delle emissioni di gas ad effetto serra. Al tempo stesso, secondo il vicepresidente, questo migliorerà il campo di visibilità del conducente, contribuendo ogni anno a salvare tra 300 e 500 vite umane. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E Bruxelles prepara una posizione comune per lo shale gas negli Stati Uniti. Il gas estratto in modo non convenzionale contribuisce di fatto al rilancio dell'economia. In Europa è una situazione molto diversa, proprio a partire dalla mancanza di regole comune. Ne parliamo con Marlene Holzer, portavoce del commissario dell'energia Günther Oettinger. Questa è una cosa che deve poi decidere lo Stato membro. Noi come Commissione europea non possiamo dire niente, però vale a dire che anche se ci sono queste enormi possibilità e ci sono paesi come la Polonia che ha molta fiducia in questo shale gas e vuole anche essere meno dipendente dall'importazione della Russia, dobbiamo vedere che mai arriviamo a una situazione come negli Stati Uniti, dove penso un terzo del gas adesso consumato è gas scisto. Lo vedete come un possibile sostituto delle rinnovabili? No, nel senso che sarà una cosa che va uno con l'altro, perché per adesso non c'è la possibilità per il solare e anche per l'eolio di stoccare veramente questa energia, quindi si ha bisogno di sistemi di backup e lì il gas è molto molto flessibile, nel senso che uno può incominciare in un minuto e poi finire in un altro. Sono Federico Taddia e oggi vi voglio segnalare la figura del mediatore europeo, persona a cui rivolgersi per denunciare casi di cattiva amministrazione nelle istituzioni dell'Unione. Il mediatore indaga infatti sulle segnalazioni da parte di singoli, imprese e organizzazioni nell'eventualità siano state infrante le leggi o siano stati violati i diritti umani in situazioni come pratiche inique, discriminazione, abusi di potere o ritardi ingiustificati. E proprio martedì 23 aprile il mediatore europeo Nikiforos Diamandouros organizza un seminario rivolto a tutti i cittadini. A partire dalle 9.30 l'ufficio di informazioni in Italia del Parlamento europeo trasmetterà l'evento in diretta presso la sede di Roma e sarà l'occasione per rivolgere le proprie domande. L'iniziativa si intitola L'Europa è nostra, partecipa attivamente. L'ingresso è gratuito, i posti però sono limitati. Per informazioni www.europarl.it. L'intervista a Marlene Hölzer è stata realizzata da Laura Bettini. Con questo è tutto, in regia Filippo Aureggi, al microfono Gigi Donelli. Noi naturalmente torniamo come sempre domani a partire dalle 13.15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.